Scusami. Se sogno di non dirti mai ti amo, anche se è tanto che ci conosciamo. Scusami, ho mancato un altro appuntamento, anche se non è da me. Scusami, se ti ho detto che sono speciale, ho mentito. Sono il solito. Scusami, se ti chiedo di prendermi a calci, ho sbagliato. Ho messo poco impegno, questo io lo ammetto. Quello che tu hai visto è il 20%, quindi è meglio che mi odi, che così risparmi tempo. Oppure la tendenza a rovinare ciò che è bello. Non sono stato onesto, sono stato molto umano. Ho pensato che il mio meglio sarebbe riscaldato. Se tu manchi, se tu resti, non mi tiene sveglio. Temo spesso che ogni giorno io sarò un po' più freddo. Il prezzo del distacco l'ha pagato solo il guscio. Nell'ombra di quel manto, nessuno è stato meglio. Ti giuro su me stesso che non valgo un cazzo. Ad avermi accanto non c'è nessuno guadagno, posso accumulare storie ma non darti soluzioni. Fischiare questo mazzo inventando spiegazioni. Passarti la mia lama con il manico lontano per allontanare l'idea di allungare questa mano. È meglio che mi odi che così risparmi tempo. Temo spesso che ogni giorno io sarò un po' più freddo. È meglio che mi odi che così risparmi tempo. Ti giuro su me stesso che non faccio un cazzo. Odiami. Per me non sei poi così importante, ma sto bene quando sono con te.